sentries get so mad. Buonasera, buonasera fratelli e sorelle, compagni e compagne all'ascolto. Questa qui è Radio Onda Rossa, è 87.9 modulazione di frequenza, www.ondarossa.info. Oggi è lunedì 13 ottobre, questa qui è Entropia Massima Antropologica, una nuova fantastica puntata del ciclo 2025-2026 di Entropia Massima alla vostra radio preferita, Radio Onda Rossa. Lascio subito, senza indugio, la parola a Miriam, alla comandante Miriam, per la sua introduzione della nuova puntata di Antropologica. Grazie Lorenzo, benvenute e benvenuta a tutti e tutte. Appunto, questa è Antropologica e l'antropologia che incontriamo oggi è quella che si posiziona politicamente, quella che non separa i propri metodi, le proprie tecniche, le proprie epistemologie dalle lotte che sceglie di intraprendere. La lotta agita anche corpo a corpo da più di 20 anni di cui parliamo oggi è quella che si oppone alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina, un'opera davvero profondamente controversa, comunque la si voglia guardare, quindi dal punto di vista infrastrutturale, economico, ambientale, territoriale, ma anche rispetto all'autonomia, all'autodeterminazione. Quindi a raccontarci questa storia di speculazioni, ma anche e soprattutto di dissenso locale, di dissenso comunitario, abbiamo invitato Giuliana Sanò. Giuliana è un'antropologa, oltre a una carissima amica, una collega, insegna antropologia sociale all'Università di Messina ed è anche un'attivista dell'Assemblea No Ponte. Ma prima di incontrare Giuliana, ascoltiamo il primo dei pezzi di un gruppo francese che amo veramente molto, che si chiamano i Puff, che ci terranno compagnia per tutta la puntata. Allora, i Puff. Thank you. Bentornate a tutte e tutti sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Questa è Antropologica, Entropia Massima. E siamo oggi qui in trasmissione con Giuliana Sanò, a cui abbiamo chiesto di orientarci, abbiamo chiesto di riflettere con noi, con tutte e tutti, sulla costruzione del Ponte di Messina dal punto di vista dell'attivismo, attivismo che lei stessa agisce, e sempre dal punto di vista della nostra disciplina, l'antropologia. Giuliana cara, lascio a te la parola. Buongiorno Miriam, buongiorno a tutte e a tutti e grazie innanzitutto per questo spazio che hai voluto, che avete voluto concedere al movimento e quindi alla lotta No Ponte, il movimento che ormai insomma ha una lunga storia, che certamente non è nato negli ultimi tempi, ma che recentemente, proprio perché diciamo la preoccupazione è cresciuta, così come sono cresciuti i discorsi, gli interessi intorno a questa grande opera, così anche il movimento negli ultimi tempi si è, come dire, irrobustito, no? E ha aggiunto a delle voci storiche, no? degli attivisti, delle attiviste No Ponte, anche altre nuove voci, voci di giovani, voci di, anche di persone anziane che effettivamente vivono più di altre la seria preoccupazione che di dover abbandonare il proprio territorio, la propria casa, la propria abitazione, e quindi tutto quello che questo comporta o potrebbe comportare nell'ambito della vita intima, domestica, e anche, se vuoi, dal punto di vista psicologico, emotivo. E quindi in un certo senso un movimento che anni fa era nato, ormai appunto più di 20 anni fa, era nato con delle ambizioni, cioè quelle appunto di mettere in discussione qualunque forma progettuale che non fosse, che non fosse quantomeno discussa, presentata, concordata con gli abitanti del territorio, ma che ancora, diciamo così, vedeva la possibilità della costruzione del ponte sullo stretto come qualcosa di lontano, diciamo come un semplice dispositivo discorsivo, cosa che comunque è rimasta ancora oggi, in effetti ha poi nel tempo incontrato e ha inglobato anche le voci di persone che via via si sono avvicinate al movimento, man mano che appunto quest'ombra lunga, come dire, si allungava sempre di più sulle nostre teste, sulle nostre vite, sui nostri corpi e sulla possibilità appunto di poter continuare a vivere, a respirare, come mi è capitato di dire in altre circostanze, in altri luoghi, in questo territorio. E io stessa, che pure ho sempre partecipato alle manifestazioni contro il ponte, da che io mi ricordi da ragazzina, insomma, dai primi anni 2000, con la mia famiglia o con i compagni di classe, con poi i compagni di università, diciamo che il movimento No Ponte, e quindi la lotta No Ponte, è come dire un pezzo di città. Un pezzo di città che ha accompagnato le vite, insomma, della maggior parte di noi, sia di quelli e quelle che hanno voluto investire energie, tempo, spazio e denaro per le raccolte, per gli spostamenti, insomma, e dentro questa lotta, sia per quelle che ne sono volute rimanere fuori fino praticamente all'altro ieri, cioè fino a quando questo progetto è diventato qualcosa di più concreto e quindi di più spaventoso, ma soprattutto da quando in qualche modo sono state scoperte le carte, passami questo termine, cioè dire Fino a qualche tempo fa, si pensava che solo una parte della città, la zona nord, quella residenziale, quella diciamo così anche più suggestiva di questo territorio, cioè quella di Capopeloro, quindi insomma nel quadro così dello stretto di Messina, quello scenario unico. Quindi fino a qualche tempo fa si pensava, la città era convinta che solo quella parte di territorio sarebbe stata in qualche modo colpita dalla costruzione di questa grande opera. Già ormai da diverso tempo, da più di un anno, la città ha preso coscienza del fatto che non sarà soltanto quel territorio, ma tutta la città da sud a nord, quindi tutti i quartieri, dalle periferie al centro, a essere investite, colpite, distrutte, devastate dai lavori che precederanno e seguiranno la grande opera. Per cui chiaramente un movimento come quello della lotta contro il ponte, che appunto ha delle radici storiche molto salde, molto solide, si è via via, come dire, consolidato anche grazie, diciamo, al fatto che ormai alcune carte sono state scoperte e in qualche modo tutti abbiamo dovuto prendere coscienza del pericolo, no? Di questa spada di Damocle, qualcuno l'ha chiamata, che poggia così sulle nostre teste. E dunque, per rispondere, spero, diciamo, in maniera efficace anche alla questione che riguarda il mio posizionamento, no? Per utilizzare un termine antropologicamente anche molto connotato, il mio posizionamento dentro il campo del movimento No Ponte è un posizionamento che, come dire, via via è cambiato anche nel tempo, appunto da ragazza, ragazzina, adolescente che partecipava alle manifestazioni, al forum, ai gruppi, sino ad arrivare ad oggi, e quindi a un posizionamento molto più consapevole. È molto più anche ragionato, pensato, articolato e appunto è passata un po' di acqua sotto i ponti per l'appunto. Il mio posizionamento è cambiato. È cambiato perché nel frattempo io appunto ho cominciato a lavorare come antropologa, a insegnare antropologia e quindi a dotarmi anche di tutta una serie di strumenti che naturalmente quando ho iniziato a partecipare al movimento da ragazzina, da ragazza, da adolescente non avevo. E quindi questi strumenti sono chiaramente il frutto di un percorso, di una biografia che non è semplicemente però quella, come dire, accademica, anzi direi che quasi mai lo è, ma di una, come dire, di una formazione, o meglio, di un'idea di antropologia che si fa, come dire, strada facendo, e mi spiego anche in che termini pensi io sia in qualche modo stato centrale per me il ruolo e anche il contributo dell'antropologia. Ora, io mi sono occupata nel tempo, sin dal dottorato, di migrazioni, di lavoro, sono questi i temi in cui io ho concentrato, insomma, le mie risorse, le mie energie e i miei studi. E quindi, diciamo, mi sono avvicinata al movimento No Ponte, quindi alla lotta No Ponte, non nei termini della studiosa, della ricercatrice intenzionata a, come dire, a cambiare anche solo per un momento, no? Il proprio focus, il proprio campo di ricerca, anche un po', insomma, questa è una cosa che noi spesso facciamo, che abbandoniamo un campo, poi magari ci ritorniamo più avanti, però perché sentiamo l'esigenza, l'urgenza anche di, come dire, rinnovare i nostri interessi di ricerca. In parte perché ce lo chiede il sistema, in parte perché lo sentiamo proprio come esigenza personale, no? Ma l'intenzione con cui io mi sono avvicinata alla lotta No Ponte non ha mai veramente, come dire, inglobato delle ragioni squisitamente, strettamente accademiche. O di ricerca. E questo perché ho da subito provato come dire anche un certo disagio a stare dentro la lotta No Ponte e dentro il gruppo poi più ristretto di cui io faccio parte, che è Assemblea No Ponte, ma faccio parte anche di un altro gruppo che è Universitari No Ponte, magari se avrò modo dirò qualcosa anche su questo, però diciamo il mio modo di stare dentro questo gruppo, dentro la LOT, poi dentro questi gruppi, gruppo più ristretto, parlo in questo caso di quello di Assemblea No Ponte, non è mai stato, diciamo così, ma non mi è mai balenato per la testa di stare dentro questo gruppo, come dire, drizzando le orecchie, che è una cosa che noi spesso, anche involontariamente, perché ormai è un po' come una deformazione professionale, drizzando le orecchie. Per appunto raccogliere voci, proposte, metodi, linguaggi da, come dire, da registrare anche semplicemente così a mente e poi da riportare dentro il diario di campo, il diario, insomma il taccuino che è lo strumento che. Di lavoro, insomma, di noi antropologi e antropologhe. Non ho mai voluto prendere parte a questo movimento, a questo gruppo, all'assemblea, posizionandomi in maniera esplicita, diciamo esplicitamente come ricercatrice. Perché innanzitutto pensavo e ho sempre pensato e continuo a pensarlo che la mia esperienza, come dire così, da cittadina, peraltro da residente o ex residente, nata e cresciuta in quella zona appunto dello stretto, cioè la parte nord della città dove dovrebbero sorgere i pilastri, il ponte, eccetera, cioè la zona che sarebbe poi più sacrificata dal ponte, non ho mai pensato che potesse essere, diciamo, una porta di ingresso dentro il movimento. Al contrario, ho pensato che potesse in qualche modo ostacolare anche i processi di comprensione di quello che il movimento, no? Prova a portare avanti, dei discorsi, dei ragionamenti. E quindi, diciamo, la mia esperienza da residente, da attivista. Ho pensato che in questo caso non potesse, come dire, consentirmi di aprirmi altre strade, altre porte. Ci sono dei casi in cui questo ha funzionato, penso per esempio alla mia precedente esperienza con le migrazioni, ma in questo caso il coinvolgimento è così, profondo, ed esteso anche, che da subito ho ritenuto di non dover, come dire, lavorare nel doppio ruolo di antropologa e attivista e poi anche residente, e poi ecco, tutto questo insieme di cose. Per cui ho deciso di stare dentro il movimento mettendo, come dire, tra parentesi, ammesso che questo poi veramente si possa fare, e magari appunto tra poco ti dirò meglio, il mio, come dire, cotè accademico, antropologico, per dedicarmi anima e corpo, come del resto fanno gli antropologi, le antropologhe sul campo, alla lotta no ponte e come dire, alla costruzione di reti e di relazioni dense, significative con le compagne e i compagni della lotta no ponte. E bentornate a tutte e a tutti, bentornata ad Antropologica, è ancora la prima trasmissione radio italiana di antropologia, siamo sulle frequenze di Radio Onda Rossa e prima della pausa musicale Giuliana Sanò ci stava raccontando del gruppo Assembleano Ponte, movimento che si oppone da tempo alla costruzione di questa grande opera che è il Ponte di Messina. Ci si oppone per una serie eterogenea di ragioni che vanno dalla devastazione territoriale alle espropriazione proprio territoriale, all'assoggettamento della popolazione che si vede impotente di fronte a un'opera inutile che subisce ma sulla quale non ha apparentemente capacità decisionale, ma sì, e si vede quella di opporsi collettivamente, coralmente, con i corpi allerta e le parole coltello, direbbe Frantz Fanon. Ecco Giuliana, ci hai detto prima dell'attenzione che hai posto nell'entrare nel gruppo Assembleano Ponte e ci hai accennato anche del gruppo universitario No Ponte, di come ti sei posizionata nettamente come attivista e non come antropologa, cioè non come scienziata sociale, invece come colei che, proprio come ci raccontavi, entra nel campo, raccoglie i dati, osserva e poi analizza questi dati, quindi come una ricercatrice. Quindi non l'hai fatto in questo modo, ma l'hai fatto come parte di un movimento. E allora mi chiedo e ti chiedo se comunque abitando questo campo di lotta l'antropologia ti abbia comunque sostenuta dal punto di vista etico, morale o meno. Ti dicevo, la mia è stata una decisione di campo, no? E quindi ho deciso di adottare un posizionamento, come dire, che propendesse più per il mio cotè, la mia anima, come dire, attivista, e mettesse tra parentesi quella invece della ricercatrice sul campo. L'ho fatto, come ti dicevo, perché pensavo che la mia biografia potesse, come dire, in qualche modo soffocare anche, no, la parte invece di osservazione, quindi anche poi di interpretazione, di restituzione del dato, e quindi il primo pericolo che io ho avvertito e che mi ha spinta a posizionarmi solo da attivista dentro il movimento, non è però l'unica motivazione. Dietro questa motivazione c'è anche, come dire, un principio che secondo me ormai è anche tanto diffuso nelle scienze sociali, di cui si ragiona moltissimo, cioè si fanno anche convegni su questo, discussioni, pamphlet, riviste, numeri speciali, cioè sulla dimensione etica, no? Della ricerca. Per cui, come dire, tenere insieme, conciliare in qualche modo le mie relazioni, le relazioni personali, relazioni politiche con il gruppo, e allo stesso tempo, come dire, estrarre più o meno, come dire, consapevolmente, più o meno opportunisticamente del materiale, appunto, da quelle conversazioni, da quelle assemblee, da quelle riunioni, per poter poi, come dire, costruirci sopra un discorso scientifico, accademico, teoretico, su quel materiale, ecco, mi sembrava andasse in una direzione diversa dalle mie esigenze, ma anche forse da un modo in cui io intendo fare il mio lavoro. Che non significa, come dire, deporre in qualche modo gli strumenti, no? Mettere al chiodo l'antropologia, il mio sapere, anche la mia formazione, ma al contrario farne un uso forse diverso, no? Da quello che normalmente noi antropologhi e noi antropologi facciamo, soprattutto quando, come dire, andiamo verso spazi, campi, terreni popolati, diciamo, da individualità con cui magari abbiamo sì dei rapporti, delle relazioni, ma non così intime, non così strette, non così viscerali come invece sono quelle che io coltivo dentro il movimento. E E quindi si sono, come dire, combinate motivazioni, come dire, teoriche e metodologiche, ma anche etiche. La combinazione di queste motivazioni, di queste ragioni, ha fatto sì che io, appunto, mi posizionassi, come dicevo, dentro questo campo di lotta. Da attivista. Naturalmente, però, non è che l'interruttore, come dire, dello sguardo, della lente, del sapere, ma anche delle posture antropologiche lo si può spegnere e quindi, appunto, e poi riaccendere a comando. È chiaro che è il modo che io ho di guardare, di osservare. Le cose intorno a me, le persone che si, come dire, situano, si collocano intorno a me, è un modo che in qualche modo è già informato, diciamo, dall'antropologia, dall'etnografia, dalle mie fonti, no? Di conoscenza e di sapere. Per cui ho ragionato in questi termini, cioè dire. Ho voluto ragionare sugli strumenti, sulle chiavi di lettura, ma soprattutto sulla postura, che l'antropologia mi ha insegnato, ad assumere tutte le volte che vado sul campo in maniera, come dire, dichiarata, esplicita, intenzionale e consapevole, ma anche quando tutto questo non è in gioco, quindi quando non c'è questa consapevolezza, ma quando tutto accade accidentalmente, no? Che poi spesso è anche parte del nostro lavoro, questa accidentalità, cioè di cose che così accadono a un certo punto e che diventano poi, come dire, il focus delle nostre riflessioni, dei nostri ragionamenti. Per cui ho, come dire, consegnato in questo senso, posso dire, ho consegnato all'antropologia un ruolo in questo, diciamo, in questo rapporto tra me e il movimento No Ponte, la lotta No Ponte, che non è però il ruolo che normalmente anche chi fa antropologia pubblica, antropologia applicata, come dire, si immagina, ma è, come dire, qualcosa che viene prima ancora. È complesso, è complicato da spiegare, me ne rendo conto, ma spero di poter essere, il più chiara possibile rispetto a questo, cioè a dire, che io, credo che l'antropologia in due modi, stia in qualche modo mi stia accompagnando, dentro questa lotta, dentro questa battaglia che è quella del movimento No Ponte, quindi non la mia, ma del movimento. E questi due modi sono il primo, appunto, lo accennavo poco fa, è nella postura, che io assumo, tutte le volte che vado a una riunione, tutte le volte che c'è bisogno di fare, non so, una conferenza stampa o una tavola rotonda, insomma, in tutte le situazioni che mi coinvolgono, che mi riguardano, quindi da quelle più informali a quelle più invece formali o formalizzate, istituzionalizzate. La mia rimane una postura, antropologica, nel senso, forse più ancora che antropologica, etnografica, nel senso che io mi posiziono, nel gruppo, e come fa l'antropologa, l'antropologo sul terreno, rimane in ascolto. E quindi non adotto mai la postura, diciamo così, dell'antropologa che insegna, che fa ricerca e che ha, come dire, strumenti in più, ma mi posiziono in maniera, come dire, così, cioè sto accanto agli altri, alle altre, al movimento, è ascolto, ma è un ascolto che non è funzionale a una, come dire, un'estrazione di dati e quindi poi una restituzione, ma è un ascolto funzionale all'apprendimento. E qui arrivo, diciamo, alla seconda, come dire, al secondo strumento, chiamiamolo, sì, strumento che mi ha dato, che mi viene, che mi deriva appunto dall'antropologia e dalla pratica etnografica, perché io ritengo che la nostra disciplina, come altre, ma più di altre forse, riesca, diciamo così, ad avviare una circolarità ermeneutica, una circolarità quindi interpretativa, ma anche, diciamo così, di costruzione di saperi, di conoscenze che altre discipline adottano meno o banalmente non ne vedono, insomma, il punto della questione. E invece per me è diventato fondamentale, e sono convinta che arrivi proprio dalla pratica etnografica e quindi poi anche dalle riflessioni che ne sono scaturite nel tempo rispetto ai miei campi di ricerca. Se c'è una cosa che ho imparato è appunto è quanto no, siano circolari i saperi, le conoscenze. E quindi se il primo passo è quello di stare no, tra le persone, ed è una cosa che chiaramente a noi antropologi e antropologi ci viene ormai, appunto, che abbiamo naturalizzato, e fa parte, diciamo così, delle nostre posture, fuori e dentro il campo a questo punto. Questo stare tra gli altri, tra le altre, anche proprio posizionarsi, allinearsi anche fisicamente con il proprio corpo, no? Dentro il gruppo, con il gruppo, a fianco delle persone, per sentire, anzi, per ascoltare e non semplicemente sentire, i discorsi, le riflessioni, le voci, ma anche la gestualità, che gli altri mettono in atto e producono e riproducono, perché da questo ascolto io possa non poi, come dire, ricavarne dei dati per produrre ulteriore conoscenza a livello, diciamo così, di produzione, ecco, scientifica, di accademica, quindi di articoli, libri, eccetera, eccetera. Ma io sono in ascolto, in mezzo agli altri, stando tra gli altri, perché imparo. E secondo me questo elemento, quello dell'imparare dagli altri, e poi, come dire, masticare, digerire queste conoscenze, no, che derivano dagli altri e restituirle a questi altri, no, in questa forma appunto circolare di restituzione, diciamo di comprensione e restituzione, no, che è un po' anche quello che ha dato il via, in un certo senso, almeno dalla svolta interpretativa in avanti della nostra disciplina, quindi che ha dato il via diciamo, alle nostre teorie, certamente quelle più aggiornate, e quindi anche alle nostre ricerche. Ecco, io trovo che in questo senso gli strumenti dell'antropologia, se utilizzati in questo modo e quindi per apprendere e poi anche restituire, ma dentro il movimento, quindi dentro i gruppi, le assemblee, e allora ti ti direi che è questo il mio modo, come dire, di essere, se forse un po' anomalo, un po' bizzarro, un po', diciamo così, antiutilitaristico, non saprei come altro dire, visto e considerato che, questo ci tengo a dirlo, tante persone mi hanno chiesto di dare un contributo antropologico, nel senso più tecnico del termine, no? Alla causa, e molto spesso io mi sono trovata in grande difficoltà perché appunto non ho ragionato in questi termini e non ho, come dire, sedimentato quel tipo di conoscenze che normalmente si richiedono poi a un discorso più scientifico. Ti direi che invece mi sono concentrata sulle pratiche, ed è lì che penso che l'antropologia mi abbia supportata, aiutata a stare dentro un movimento, no, a starci, perché gli accademici, le accademiche non sempre riescono a stare dentro i movimenti, proprio perché non sempre viene, come dire, compresa, ma forse nemmeno concepita fino in fondo questa circolarità. Cioè, noi parliamo tanto di terza missione, quindi del rapporto con i territori, con gli enti territoriali, però effettivamente questa circolarità, almeno quella che ho provato a spiegare io, di cose che si fanno insieme, che si imparano insieme, che si restituiscono insieme, non sempre è così, non è sempre facile da fare, ma soprattutto se non si è predisposti. E non sempre gli accademici e le accademiche sono disposte a porsi in questi termini, no? Anche dentro i movimenti. Per cui è questo quello che mi ha insegnato l'antropologia e credo che sia la cosa che anche più si vede, insomma, anche dai rapporti che io ho costruito nel tempo con le persone che fanno parte di questo gruppo. Thank you. Ed eccoci tornate e tornati su Antropologica, siamo quasi in chiusura con Giuliana Sanò e con il movimento No Ponte. E Giuliana, allora la domanda di rito che faccio a tutte le colleghe e a tutti i colleghi. L'antropologo, l'antropologa non è un lavoro per? Allora l'antropologo, l'antropologa non è un lavoro per chi è in cerca di certezze. E allora grazie Giuliana, e Antropologica finisce qui proprio su queste mancate certezze. Noi ci vediamo la prossima settimana sempre con Entropia Massima, sempre sulle frequenze di Radio Onda Rossa, ma con Libera Scienza e Libero Stato. Lorenzo? Sì, torna Libera Scienza e Libero Stato per la prima puntata del ciclo 2025-2026 e questa volta il comandante Jacopo ha invitato un suo collega che si chiama Francesco Valle, che verrà in studio a spiegarci di cosa si occupa, in particolare di cosa è la nanomedicina, e ci condurrà per mano negli anfratti di questa materia a noi per il momento sconosciuta. Quindi chiudiamo la trasmissione di Antropologica e ricordiamo che Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza condizionamenti, e quindi e senza pubblicità, ovviamente si sostiene grazie all'aiuto di chi se la sente. Quindi invitiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a visitare il sito www.ondarossa.info per individuare, cliccando su Sostieni, la modalità migliore per sostenere la vostra radio preferita. Allora, ringraziamo tutte e tutti e salutiamo chi ci ha ascoltato, soprattutto chi ci ha ascoltato in condizioni di privazione della propria libertà personale, e grazie dell'ascolto. E fratelli e sorelle, compagni e compagne all'ascolto, questa qui era Entropia Massima Antropologica. Ciao!